Tra le righe, spunti, incontri e divagazioni con Adelaide Spallino. Benvenuti a Tra le righe. Questa sera con noi è Francesca Serafini e parleremo del suo libro Questo è il punto, istruzioni per l'uso della punteggiatura, editori La Terza. Benvenuta Francesca. Grazie a voi dell'invito. Francesca, tu come sceneggiatrice, editor, saggista, ti confronti con le parole a 360 gradi, esplori tutti i contesti in cui la lingua italiana vive. Non è la prima volta che ti occupi dell'argomento interpunzione. Quest'ultimo lavoro è uscito da poco. Perché ancora un libro sulla punteggiatura? Da quale esigenza nasce? Dunque, la domanda andrebbe rivolta al mio editore, nel senso che per lungo tempo, dopo aver letto l'altro libro che avevo pubblicato una decina di anni fa per Rizzoli e avendolo apprezzato, voleva che facessi una cosa anche per loro. E però appunto io, pur pensando che la punteggiatura è uno strumento fondamentale per chi scrive, non avevo la voglia lì per lì di rimettermi di nuovo a studiare questo argomento. E poi devo dire che invece io sono molto grata alla Terza di avermi dato questa opportunità, perché non si torna mai sullo stesso luogo. Mi pare che un grande viaggiatore una volta ha detto che il ritorno è un equivoco sentimentale, no? E mi pare che anche in questo caso sia andata un po' così, nel senso che poi in 10 anni io ho fatto tutta una serie di esperienze, non solo umane, ma anche proprio culturali e intellettuali. Intanto ho cambiato mestiere, perché come si diceva nell'introduzione, in questi ultimi 10 anni ho fatto per lo più la sceneggiatrice e poi ho letto molti altri libri che mi hanno appassionato in questi anni, e allora ho cercato di riportare sullo stesso argomento tutte le esperienze che avevo vissuto negli ultimi anni, e il risultato è stato quello di alleggerire in un certo senso la parte più accademica, più vicina alle esperienze universitarie che invece erano a ridosso dell'altro libro, e scoprendo dei territori nuovi, portando dentro anche l'esperienza delle serie televisive, dei film che avevo visto negli ultimi anni. E quindi non sarò mai abbastanza grata a Anna Gianluca, nella fattispecie, di avermi dato l'opportunità di fare questo viaggio, perché sono stata io la prima a sorprendermi delle novità che portava con sé. Nell'introduzione citi le parole di Collodi tratte dalla Grammatica di Giannettino, un libro del 1883. Io leggo: se sbaglierai a metter bene una virgola o un punto, non sarà poi la rovina. C'è ancora oggi questo tipo di indulgenza nei confronti dell'uso, diciamo, disinvolto della punteggiatura? Io direi di sì, per una ragione semplice che cerco di spiegare nel libro, cioè che fin qui in fatto di punteggiatura le regole, le norme, sono state sempre molto indefinite. La punteggiatura è uno di quegli ambiti della linguistica in cui difficilmente anche le grammatiche ci hanno saputo dire con certezza, no, quando va usato il punto o quando va usata la virgola. E questa per una ragione, secondo me, riconducibile alla idea che la punteggiatura rappresenti nello scritto le pause del parlato. E quindi se noi andiamo cercando questo tipo di punteggiatura, è chiaro che ci affidiamo un po' al nostro modo di leggere, al nostro modo di interpretare la scrittura. E invece la punteggiatura serve anche ad altro, cioè la punteggiatura serve soprattutto anche a definire il senso e il significato e a condizionarlo, il senso delle frasi. Per cui quello che il libro cerca di fare è smantellare questa concezione del passato che ne ha condizionato l'instabilità, e a partire da una nuova concezione provare a dare delle regole precise, e a quel punto si spera anche che, stabilita la regola, si cerchi di essere meno indulgente con l'eccezione, a parte ovviamente le eccezioni d'autore, che rappresentano, aprono un altro scenario, che è quello dello stile, dell'esigenza espressiva, che però non è quella che si va cercando a scuola come prima cosa, no? Quindi tu con questo libro trovi una mediazione, fai una mediazione tra la punteggiatura come strumento che regola le pause o che caratterizza le relazioni logico-sintattiche tra le varie parti di uno scritto. Invece prima, come dicevi tu, si preferiva definirla come un regolatore delle pause dello scritto. C'è questa mediazione in questo libro? Si può, ci possono essere tutte e due le cose? A dire il vero è ancora più netta, nel senso che cerco di rifiutarla del tutto, la concezione pausativa, e piuttosto cerco di fare un altro tipo di distinzione, che è quella tra punteggiatura logica, sintattica, e punteggiatura espressiva, cioè quella, come dicevo prima, che possono usare gli autori, grandi autori, gli scrittori, per caratterizzare il loro stile in un certo modo, anche violando consapevolmente le regole della punteggiatura logico-sintattica. Poi, ovviamente, ci sono altri aspetti della punteggiatura che vanno considerati, perché se ci fermassimo solo a questi elementi, allora non sapremmo dove mettere il punto esclamativo, che certamente non ha una funzione sintattica, perché tra le altre cose alcuni segni interpuntivi invece hanno un valore propriamente espressivo, no? Il punto esclamativo dà indicazioni sull'intonazione della frase, allora sì, in quel caso, come nel caso del punto interrogativo, si rimanda a un'idea di relazione con il parlato, però in linea generale, proprio per aiutare chi si accosta a questo argomento con tutti i dubbi che legittimamente fin qui si potevano avere su questo argomento, si parte da un'idea piuttosto chiara e militante, vorrei dire, insomma, per poi da lì stabilire non delle regole nuove, perché poi insomma le regole sono quelle: evitare, per dirne la più clamorosa, la virgola tra soggetto e verbo, per esempio, o tra verbo e complemento oggetto. Però appunto partendo da un'idea che è sostanzialmente logico-sintattica della punteggiatura, cercando di lasciare al passato, alle concezioni del passato, lo spazio che non meritano, insomma. Hai accennato alla virgola, parliamo un attimo di lei. Tu l'hai definito il segno più femminile fra tutti. Io sono mossa a umana comprensione per la virgola, e non è anche il segno che più di tutti rischia di essere sfruttato in malo modo? Ci sono diversi segni. E quindi anche per questo, purtroppo, è un segno femminile. Insomma, il gioco era che cerco di, insomma, così, di accostarmi a tutti i segni nel modo più anche affettuoso possibile, e quindi nel caso della virgola mi sembrava che il lavoro che svolge nella frase, nelle frasi, fosse un po' quello appunto delle donne che mandano avanti le famiglie, mandano avanti, fanno il loro lavoro e poi si occupano della famiglia, fanno tante cose, no? Anche abbastanza silenziosamente, cioè senza sgomitare, no? Per prendersi la scena, come fanno invece altri segni interpuntivi, tipo il punto esclamativo, che è il più clamoroso da questo punto di vista. Era un gioco per dire che comunque la virgola manda avanti il discorso, In alcuni casi, anche lì, per ragioni stilistiche, può andare oltre la sua funzione primaria. Penso per esempio all'uso che ne fa un grandissimo autore come Saramago, che la usa per introdurre il discorso diretto, violando quello che è la consuetudine, no? Di introdurre il discorso diretto con i due punti seguiti o dalla lineetta o dalle virgolette. Invece Saramago mette sempre la virgola seguita dalla iniziale della parola che segue e che introduce il discorso diretto. Le interviste di Tra le righe. Poiché la lingua italiana non la si può racchiudere al solo ambito letterario, tu in questo saggio esplori il linguaggio delle serie televisive, ad esempio come Scrubs, o il linguaggio di internet, dove l'uso della punteggiatura è anche di tipo, mi permetto, iconografico, parentesi, punti, virgola, hanno il compito di esprimere le nostre emozioni e spesso senza l'uso delle parole. Perché questo, secondo te? C'è una reale convinzione che la faccina renda meglio il nostro stato d'animo rispetto allo scrivere sono contenta oppure che tristezza? Naturalmente no, io mi affiderei sempre comunque alla parola, però c'è un motivo che credo sia dovuto alla immediatezza di queste faccine. I mezzi di comunicazione moderni, internet, le chat, ma anche gli SMS, no? Ci predispongono a una comunicazione immediata, in tempo reale, e se uno vuole esprimere dissenso o invece consenso rispetto ad una cosa che è stata scritta magari nel post di un social network, con la faccina tu immediatamente, attraverso digitando due segni, hai già detto tutto, come diceva Peppino in quel film dove appunto poi si parla anche molto di punteggiatura, che è Totò Peppino e la mala femmina. Sì, la famosa lettera. Quindi credo che sia più legato a un'esigenza di comunicazione immediata e anche espressiva, evidentemente. Poi per quanto mi riguarda, io preferisco sempre affidarmi alla parola, come dicevo, perché è più complessa e quindi ha più sfumature, però appunto è meno immediata da questo punto di vista. E invece la serie di Scrubs, come mai l'ha citata? Cosa ci dice a proposito della punteggiatura o dei dialoghi? In realtà nel libro uso Scrubs come metafora più che altro, nel senso che io sono una grandissima appassionata di questa serie e quello che mi seduce di più, a parte i dialoghi e la scrittura straordinaria di Bill Lawrence che se l'è inventata, è questo rapporto tra J.D., che è lo specializzando in medicina, e il suo mentore, che è il dottor Cox, che rifiuta il ruolo di mentore e a ogni dubbio di J.D. risponde con altri dubbi e con altre domande. Che c'entrava tutto questo con la punteggiatura? A me sembrava, in maniera molto, mi rendo conto, diciamo, con un salto piuttosto così, nel mio caso, divertito, che questo rapporto potesse rappresentare il nostro rapporto nei confronti della grammatica, perché i linguisti non sono i grammatici, non sono quelli che hanno sempre le idee chiare e che più che altro le idee chiare ce l'hanno anche, ma non ce le comunicano in maniera normativa. La linguistica, la grammatica moderna, è una grammatica prevalentemente descrittiva, ci descrive quello che esiste. E invece noi, come J.D., che abbiamo dei dubbi, ci aspetteremmo dalla grammatica delle risposte certe, inequivocabili, per risolvere tutti i dubbi che ci possono venire rispetto mentre stiamo scrivendo o mentre stiamo parlando, magari in determinati contesti. E allora, attraverso questo gioco, mi sembrava di potermi avventurare nei meandri così anche più oscuri della grammatica, non respingendo il lettore, non spaventandolo, ma accogliendolo nel ricordo o nella suggestione, insomma, di questo rapporto che io ho trovato sempre molto interessante tra questi due personaggi. Beh, qualcuno potrebbe prendere allora giustificazione che la grammatica si rifiuta di fargli da mentore, racchiudendo per giustificare i suoi errori. In realtà, esattamente come Cox, non è proprio così. La grammatica, esattamente come Cox, punta alla consapevolezza. Nel momento in cui io ti descrivo l'esistente, ti metto a disposizione tutte le straordinarie varietà della nostra lingua e ti faccio capire che non esiste una parola giusta e quindi anche una punteggiatura giusta che va bene per tutti i contesti, ma che esiste solo quella adatta ad un determinato contesto, attraverso questa consapevolezza io il vero mentore, diciamo, e quindi la vera grammatica è quella che ti dà gli strumenti perché poi tu da solo possa risolvere i tuoi dubbi. E infatti Cox al momento opportuno poi a JD alla fine la soluzione gliela dà e anche la grammatica lo fa, però non imponendo una regola, ma rendendo chi la legge, chi la pratica, chi la studia consapevole nel determinato contesto in cui la va a applicare. Mi è venuto in mente James Joyce, il flusso di coscienza di Molly Bloom è completamente privo di punteggiatura perché deve dare il senso, no, del flusso del pensiero interiore, eccetera. E che piega avrebbe preso se Joyce avesse usato la punteggiatura? Avrebbe perso anche intenzione emotiva? Si può immaginare un flusso di coscienza con la punteggiatura? Decisamente no, e vorrei dire che quel meraviglioso esperimento letterario porta acqua al mio mulino, nel senso che se per provare a immaginare il pensiero non riorganizzato linguisticamente si scrive senza punteggiatura, si dimostra, secondo me, che la punteggiatura condiziona sintatticamente il pensiero, perché alla fine la sintassi che cos'è se non il pensiero che si dispiega in lingua? E allora, se io voglio rappresentare l'affiorare affastellato dei pensieri, ancora prima della riorganizzazione linguistica, gli tolgo la punteggiatura. Togliendogli la punteggiatura, quindi non gli tolgo le pause del respiro, gli tolgo le manovre, no, che farebbe uno che guida il discorso, l'organizzazione, lo condiziona anche nel senso. Ed ecco da qui anche perché il futurismo, che voleva togliere di tutto anche la punteggiatura, non ha avuto futuro, appunto, non ha attecchito, perché sì, tra l'altro nel libro mi diverto così, poi devo dire anche con una certa spudoratezza a giocare anche con, insomma, i grandi della nostra letteratura, senza, spero, mancargli di rispetto, perché non era questa l'intenzione. E a proposito di Marinetti, osservo come poi nel manifesto in cui propone di abolire ogni segno interpunctivo, in realtà li usa tutti quanti, anche con, direi, una certa competenza e appropriatezza, insomma. Per cui sì, è questo, diciamo, anche prendendo un po' a sbalzi, insomma, alcuni pezzi del libro, si capisce che il tono che ho scelto è appunto, come dicevamo anche all'inizio dell'intervista, non è quello accademico, non è il pur, diciamo, provando ad avere il massimo della documentazione, anche di riferimenti scientifici appropriati, però il tono, insomma, è quello anche di prendersi un po' in giro e anche prendermi in giro io stessa mentre scrivo, come succede in certi passaggi del libro. Infatti si tratta di una lettura che risulta molto piacevole, oltretutto tutti questi passaggi, le citazioni che servono alla struttura del libro, alla spiegazione della punteggiatura, più che altro anche al racconto, alla narrazione della punteggiatura. Per concludere, C'è un segreto per non finire un po' come Peppino e Totò? Cioè, loro abbondavano in punti e virgole per evitare che si pensasse che fossero tirchi e provinciali. Cosa possiamo fare noi? La moderazione? Come possiamo? C'è qualcosa che ci puoi suggerire? Così. Dal punto di vista della moderazione, senz'altro sì, di evitare un eccesso di tutti quei segni espressivi che, usati opportunamente, possono caricare emotivamente il nostro testo, ma senza eccessi. Se per esempio abbiamo l'esigenza di un'esclamazione, non abbiamo bisogno di mettere 10 punti esclamativi, uno basta per caricare il peso di tutte le emozioni. E questo, diciamo, per quanto riguarda la moderazione. Poi per il resto vorrei dire di usare tutta la gamma e tutto il repertorio dei segni interpuntivi, perché nel libro prendo anche ad esempio certi usi giornalistici che portano magari in qualche caso, nell'uso di qualche anche grande firma, no, a usare prevalentemente il punto e la sola virgola, no? E invece, secondo me, in quei casi lì certe scelte dello stile, no, finiscono per impoverire poi la lingua, che invece è interessante ed è bella proprio per questa sua varietà, che ci permette di avere tante sfumature diverse, per cui i punti che abbiamo sono abbastanza, non abbiamo bisogno di altri segni e non abbiamo bisogno di usarli in maniera esagerata, come dicevo prima. Usiamoli tutti, usiamoli nelle zone giuste, con la giusta intenzione e magari provando, in caso di dubbio, a seguire le regole che ci sono nel libro. Certo, quindi in caso di dubbi prendiamo questo libro, questo è il punto, istruzione sull'uso della punteggiatura, pubblicato dalla Terza, usiamolo come mentore, ma non esageriamo, che poi dobbiamo essere autonomi, giusto? Quindi. Esattamente. Grazie Francesca, grazie, grazie mille, a voi, buona serata. Tra le righe e Adelaide Spallino vi danno appuntamento alla prossima puntata.